la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì 6 di dicembre. E questa puntata è un po' straordinaria rispetto a tutte le altre. No, non seguiremo argomenti dalla cronaca politica o da quella economica finanziaria, né daremo voce, continueremo la prossima settimana a farlo, ad ascoltatori che se la passano male nella crisi e ci segnalano maniere, insomma, per interloquire con qualcuno che dia risposta ai loro problemi. Oggi facciamo una riflessione più di fondo, lo facciamo in realtà con una tradizione che rispettiamo ogni anno in questo giorno, perché approfittiamo della benevolenza e della disponibilità dell'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che ogni anno, il giorno prima della festa del protettore Sant'Ambrogio, a cui è intitolata qua la cattedra milanese, padre della Chiesa, siccome pronuncia in questa occasione, come fa ogni vescovo, un discorso alla città e alla diocesi, e allora ogni anno noi abbiamo stabilito questa tradizione di approfittare della disponibilità di Sua Eminenza Scola per ragionare con lui del tema che ha scelto per riflettere insieme a chi crede, alla sua diocesi, al suo popolo, ma a tutti i cittadini di Milano. E quest'anno è un tema che a me ha lasciato abbastanza, devo dire la verità, sorpresi, perché è un tema di quelli che poi da mesi noi giornalisti sviluppiamo sulla stampa, di qua, di là, per spiegare i ritardi, ce la faremo o meno, perché in realtà la riflessione, che è teologica, ma è sociale e civile, di Sua Eminenza Scola, è dedicata ai temi su cui è incentrato l'Expo di Milano, l'Expo del 2015, e cioè a nutrire il pianeta, perché sapete che questo è il tema che verrà sviluppato nella manifestazione che si prefigge di portare a Milano 26 milioni di turisti, di cui 6 da fuori e così via. E questo tema viene sviluppato in questo discorso in maniera da farci riflettere sui limiti umani che ancora non abbiamo superato, sul problema della fame nel mondo, su come però anche e soprattutto vanno affrontate alcune questioni dello sviluppo tecnologico, gli OGM, non gli OGM, una questione che mi ha colpito vedere affrontata. Insomma, questi sono i temi, però io a questo punto vi presento, e naturalmente lo ringrazio a nome vostro, l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, per essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, dottore, e a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito. No. Lei tra poco alle 18 a Sant'Ambrogio, a Milano, pronuncerà questo discorso. Le posso chiedere perché ha scelto i temi dell'Expo? Ma perché è grande tradizione dal Cardinal Schuster in avanti che questo discorso cosiddetto alla città da parte dell'arcivescovo entri un po', sia pur nei limiti oggettivi legati al suo compito, entri un po' nella vita concreta della gente e si occupi anche delle manifestazioni che vanno assumendo sempre di più un peso che interessa a tutti. Quindi è qualche cosa che sta nella tradizione. L'anno scorso ci siamo occupati del cosiddetto anno costantiniano, della libertà religiosa, e quest'anno, a partire dal tema dell'Expo, che mi sembra di grande interesse, tento una riflessione che presenterò questa sera in forma abbreviata e che invece in forma più estesa è pubblicata in un libretto che esce in questi giorni, una riflessione su come si debbano affrontare le questioni dell'alimentazione, dell'energia, del pianeta, della vita, secondo una modalità rispettosa di tutto l'uomo, di tutte le relazioni dell'uomo con gli altri uomini, del rapporto con il cosmo, in una parola della relazione dell'uomo con la realtà. Insomma. Allora partiamo proprio da questo, perché una critica, diciamo, storica a una certa lettura di come nel libro della Genesi l'uomo viene creato da Dio e viene posto dominatore e padrone, insomma, della natura, una certa critica a questo dice: in realtà poi i cristiani, con questa concezione che mette l'uomo al centro di tutto, hanno finito per garantire una giustificazione allo sfruttamento incondizionato delle risorse della terra. Io prendo in considerazione questa critica che ad un'analisi abbastanza attenta, anche appoggiata sulla riflessione di molti esegeti, si rivela infondata. Mi pare che i due racconti della Genesi ben letti non propongano alcun antropocentrismo esasperato. Credo che il problema è nato piuttosto da una certa lettura che è stata fatta lungo i secoli, soprattutto a partire dalla modernità, della grande tesi dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento dell'uomo ad immagine di Dio. Si è spesso presentata l'onnipotenza di Dio in termini separati, astratti, assoluti, in contrasto con il dato biblico per cui invece Dio sia il Dio degli ebrei che il Dio cristiano, si è giocato con la storia, in Gesù si è incarnato e quindi è tutt'altro che un Dio separato, lontano, astratto, che pratica una onnipotenza dominativa assolutistica, ma una certa prevalenza di questa immagine di Dio ha portato un modo di concepire l'uomo che è appunto ad immagine di Dio come qualcuno che può esercitare una certa onnipotenza sul creato. Ecco, quindi io credo che sia questa la ragione e che non sia contenuta nei testi biblici come tale. Ecco, quindi insomma il problema è custodirlo questo ambiente, esatto, della natura che ci viene, esatto, che ci viene affidata. Dall'altra parte però lei lancia un altro avvertimento, sì, come respinge questa tesi predatoria dell'uomo? Dall'altra dice attenzione però a non mettere la conservazione in quanto tale dell'ambiente soprattutto e sopra le esigenze dell'uomo. Esattamente, cioè nel senso che da sempre c'è stata una interazione tra il creato e la cultura umana. Il fatto stesso che l'uomo si volga al creato per alimentarsi ha implicato proprio a partire dalle energie per la vita ha consentito il crescere di una cultura progressiva, quindi non si può sacralizzare il cosmo pensandolo come un fattore intoccabile, bisogna interagire con esso equilibratamente, trattandolo come la grande dimora dell'uomo di cui dobbiamo prendere cura. Questo garantisce noi al presente e soprattutto garantisce le generazioni future. È vero però che purtroppo per lungo tempo questo non è stato fatto e il cosmo è stato spesso concepito come una sorta di miniera da cui si poteva cavare tutto senza criteri e senza attenzione alle sue forme vitali e senza una energia culturale rispettosa di tutte le forme di vita e rispettosa appunto della realtà stessa del creato. Ecco, in questo grande tema dell'alimentazione, ovviamente la lotta alla fame nel mondo, c'è un capitolo che riguarda la tecnica e l'arcivescovo di Milano lancia anche qui un allarme, dice attenzione al predominio della tecnica, qui è una grande questione aperta. Io per esempio sono di quelli che è favorevole agli OGM perché mi pare che con l'innovazione tecnologica si abbiano dei tipi di semi, dei tipi di coltivazione più resistenti esattamente a quel tipo di patologie e problemi che consentono di sfamare più persone al mondo, non significa mettere la tecnica soprattutto. Che diciamo della tecnica in agricoltura, arcivescovo? Io nella mia stesura ampia, quella per intendersi del libretto, prendo posizione sia sulla tecnocrazia da una parte che sulla questione delle piante, non tratto tutta la questione degli organismi modificati, delle piante geneticamente modificate. Per quanto riguarda il predominio tecnocratico, io metto in guardia dal rischio che oggi stiamo correndo, e cioè quello di riservare ai vari settori della scienza, della tecnica, della vita economica sociale, sia a livello nazionale e internazionale, quasi tutto il problema della progettazione del presente e del futuro. Questo porta con sé due conseguenze, secondo me, molto gravi. Primo, quella di un rendere passiva il soggetto dell'azione sociale e nello stesso tempo di mortificare i corpi intermedi, e quindi c'è il rischio di aspettarsi tutto dalla tecnocrazia e con conseguenze, ripeto, di passività che invece sono più che mai esigite in un tempo di cambiamento come il nostro. E il secondo elemento, bisogna anche evidenziare che l'incontrarsi nelle sedi internazionali e fare progetti globali di lotta alla fame, alla povertà, una cosa ancora gravissima, una malattia endemica e insopportabile in un tempo di sviluppo avanzato come il nostro, di parlare di difesa dell'ambiente è una cosa importante. Però spesso ho visto che gli stessi esperti dicono che è un po' poco efficace, esatto. No? E quindi io sono per subordinare l'elemento tecnocratico senza evidentemente negare l'importanza dei tecnici. Dire che nella lettura del suo testo esteso, lo dico perché per invogliare chi ci ascolta a leggerlo rispetto a quello che pronuncerà, la parte che lei in cui descrive gli incontri internazionali in cui sono i tecnici a predominare, sì, con relazioni iperspecialistiche, in cui si perde di vista un po' il punto di fondo, per cui per esempio esiste la FAE, la FAO esiste, certo, per coordinare i grandi sforzi per sottrarre alla fame, alla morte per fame o alla pura economia di sussistenza, certo, la gente in tutto il mondo. Quello io l'ho trovato veramente, insomma, mi ha colpito, perché è raro trovare, ecco, una descrizione di quel tipo in questo testo. Senta, sì, ce n'è un altro di paragrafo in cui lei affronta, sì, con una certa energia i temi dell'economia e della finanziaria, i mercati, la finanza. Anche lì, pur non essendo io sono un cittadino medio, no? Però a me ha sempre sorpreso, l'ho detto anche in altre occasioni anni fa, che il cittadino medio comune, senza negare la necessità di elementi specifici di alta competenza, che è toccato nella carne dall'andamento dell'economia, non può essere sempre mantenuto in una condizione di inferiorità, così che non possa capire almeno in linea essenziale cosa sta succedendo nel mondo della finanza e nel mondo dell'economia in generale. E io da questo punto di vista sono del parere che c'è come una radice individualistica e ultimamente utilitaristica nella concezione stessa dell'homo economicus che dobbiamo sforzarci tutti quanti insieme di superare. Io non so se sono state fatte regole sufficienti nei confronti della finanza da quando siamo entrati in questo grande periodo di crisi, però certamente la situazione si presenta ancora molto molto grave, non solo nei nostri paesi, soprattutto del Sud Europa, ma penso al peso dei paesi del Sud Africa, eccetera, che lì i cittadini debbono portare. Quindi io credo che anche qui sia necessario rimettere al centro l'uomo e le relazioni umane, e quindi affrontare per esempio il problema di Expo riflettendo su che cosa significhi soddisfare il bisogno di alimentazione dell'uomo e come questo ci debba rapportare in modo rinnovato ed efficace al pianeta. Insomma, quindi una certa critica ai sistemi economico-finanziari e al loro assoluto predominio, e una esclusione delle altre dimensioni del vivere associato, cioè un'attenzione alla dimensione culturale, sociale, di condivisione religiosa, va decisamente superata se vogliamo uscire dal travaglio in cui il nuovo millennio ci ha immessi. Io devo dire che la volevo ringraziare perché, da convinto della possibilità assoluta di coniugare l'etica con il mercato, cioè Smith anche con il cristianesimo, la ringrazio del fatto che in passaggio della sua lettera lei respinge questa visione di Adam Smith come di quello che diceva solo che non è della benevolenza del birraio che noi ci dobbiamo aspettare la soluzione, e parla proprio della fiducia nella relazione, che è uno degli aspetti fondamentali. Io ricordo a tutti quelli in ascolto che per esempio Wilhelm Röpke, grande tedesco che tra fine 800 era al centro di una grande polemica su quello che diventerà poi un filone, il marginalismo della scuola austriaca, cui io mi riconosco, e concezioni diverse, diceva che insomma come base morale dell'economia di mercato è indispensabile quel patrimonio etico che dobbiamo poi in definitiva a cosa? Per noi che viviamo in questa parte del mondo, diceva Repke, lo dobbiamo al cristianesimo. Questo significa, per dirlo concisamente, sue parole testuali sto leggendo, che la base etica dell'economia di mercato è costituita dai 10 comandamenti, se sono indispensabili e allo stesso tempo sufficienti. Mi ha colpito che nella parte finale, in cui torna poi su Milano, sul rilancio dell'economia milanese eccetera, però lei premette una parte che è dedicata, come devo dire, al desiderio. Esatto, ecco, questo per me, la ringrazio molto, perché è, diciamo, il nucleo centrale del mio discorso di quest'anno, a partire dai quattro temi che sono implicati nell'Expo. E cioè, se noi ci limitiamo a guardare al problema del nutrire, dell'alimentazione, solo nei termini di una concezione riduttiva del bisogno, noi inesorabilmente mancheremo un rapporto corretto con il pianeta. E parto dalla considerazione che il bisogno umano è anzitutto indice di mancanza e di fragilità, e quindi domanda, è espressione di una sete di compimento. E lì rifletto sul dato che il modo con cui l'uomo vive il bisogno è caratterizzato da una tensione continua al desiderio. Infatti l'uomo trasforma il bisogno, cioè del bisogno di mangiare fa l'arte culinaria del questo io devo interrompere l'arcivescovo su questo punto del desiderio. Ve lo lascio come tema aperto. Io ringrazio tantissimo Seminenza Angelo Scola di essere stati con noi. Continuate su Radio 24, leggete il suo discorso e con me appuntamento a lunedì.